Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. 800, questo è il numero magico, è il numero delle assunzioni previste dal protocollo d'intesa firmato a Milano il 23 luglio scorso dall'amministratore delegato di Expo 2015 SPA Giuseppe Sala e dalle organizzazioni sindacali. Il protocollo d'intesa per Expo è stato additato come un modello per nuovi contratti più flessibili ed è stato salutato con grande soddisfazione sia dal ministro Giovannini che dal premier Letta, che vede nell'Expo un volano per l'economia e l'accordo come estendibile a livello nazionale. L'amministratore delegato di Expo 2015, la manifestazione appunto internazionale e mondiale che vedrà appunto protagonista Milano, ma non solo in quell'anno, l'amministratore delegato, dicevo, Giuseppe Sala, ha sottolineato che senza il protocollo le assunzioni con la flessibilità non sarebbero state possibili, in quanto derogano le regole attuali in materia di lavoro. Allora oggi, nel nostro martedì del lavoro, e questo sarà probabilmente l'ultimo prima della pausa estiva, cercheremo di capire cosa implica questo accordo e soprattutto che tipo di posizioni si aprono, come si possono presentare anche le candidature. Entreremo molto nel vivo di questo aspetto soprattutto, e poi a Salva Danaio, nel corso appunto della nostra trasmissione, apriremo anche una parentesi che non riguarda Expo 2015, una parentesi della serie Come è andata a finire, su una questione cui abbiamo dedicato diverse puntate ma non abbiamo ancora raccontato i risultati di questa operazione. Vi ricordate i bonus bebè, i voucher per la babysitter o per la rata del nido, il sostegno economico rivolto alle mamme pronte a rientrare al lavoro dopo la maternità? Vi ricordate ad inizio luglio c'era la possibilità di inoltrare la domanda per ottenere questo incentivo appunto all'INPS? Beh, a fronte di una capienza possibile per almeno 11.000 mamme, sapete quante domande sono arrivate all'Istituto di Previdenza Nazionale? 3.783. Allora, come mai questo flop? Cercheremo di capirlo. 800 24 00 24 è il numero verde per voi, per le vostre domande di questa mattina sui contratti per Expo 2015, ma anche se avete una curiosità sul bonus bebè. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Scriveteci anche al nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, scriveteci su Facebook se volete, il nostro profilo è salvadanaio-radio24 e anche su Twitter @salvadanaio24. Con noi questa mattina intanto l'avvocato Francesco Rotondi, torna da noi, partner dello studio Lab Law, specializzato in diritto del lavoro. Bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti. E ben ritrovato anche l'avvocato Giampiero Falasca, giuslavorista, esperto per il Sole 24 Ore appunto di mercato del lavoro, ma non solo. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a tutti. E poi per quello che riguarda invece il tema del bonus bebè, più tardi ci collegheremo appunto con un'esperta in tutela della maternità e della paternità presso il patronato INAS CISL nazionale, la dottoressa Paola Franzin. Prima di tutto questo però apriamo la nostra finestra appunto sui mercati finanziari. Ribadiamo un po' i temi che abbiamo già affrontato nel corso del nostro giornale radio. Abbiamo un quadro positivo in tutta Europa, senza un luccichio particolare, sta salendo dello 0,12% Parigi, Francoforte più 0,05%, Londra più 0,12%, Milano più 0,28%. Milano ieri del resto era stata la peggior piazza d'Europa, ha accusato sul finale un ribasso di quasi 0,9 punti percentuali, mentre le altre piazze erano andate un po' meglio e oggi evidentemente rimbalza di più. Sotto i riflettori, per i motivi che dicevamo nel giornale radio, Mediaset più 2,40%, Mediolanum più 1,91%, oggi bene anche Saipem più 1,63%, A2A più 1,37%, Prismian più 1,29%. Discesa molto forte per Fiat, meno 4,76%, sono stati comunicati oggi i risultati della trimestrale che evidentemente, per quanto buoni, hanno disatteso il consenso di mercato. Il titolo scivola del 4,76% a 6 euro, scende dell'1,60% Buzzi Unicem, Finmeccanica in ribasso di un punto dopo il rialzo di ieri seguito all'accordo raggiunto appunto a Riyadh in Arabia Saudita della controllata Ansaldo per la costruzione della linea 3 della metropolitana locale. La Popolare dell'Emilia Romagna meno 0,3%, oggi sotto i riflettori anche i titoli del settore bancario perché pare che la Banca d'Italia stia svolgendo ispezioni su 20 banche appunto del nostro nostro paese per 8 gruppi avrebbe esteso le verifiche all'intero portafoglio dei crediti a chissà che non chieda. Un aumento di capitale e ricapitalizzazioni appunto per questi istituti di credito. Euro su dollaro a 1,32,69 per la borsa è tutto, andiamo appunto subito al tema di questa mattina. Allora, prima di tutto vi faccio ascoltare alcune delle dichiarazioni che abbiamo raccolto direttamente dall'amministratore delegato di Expo 2015 SPA Giuseppe Sala, proprio nella giornata in cui Expo, l'organizzazione appunto di questo evento mondiale, appunto ha siglato con le organizzazioni sindacali per appunto queste nuove assunzioni che verranno effettuate per chiaramente coordinare questo evento. In quella giornata appunto Sebastiano Barisoni a Focus Economia ha intervistato Sala. Vi proporremo delle pillole appunto di questa intervista. Sentiamo subito la prima, che riguarda i contratti di apprendistato appunto che verranno stipulati per 340 giovani di età inferiore ai 29 anni. Sentiamolo. Allora, saranno circa 340 giovani, giovani perché dovranno avere un massimo di 29 anni. Qui il tema è la creazione di nuove figure professionali, innanzitutto, nel senso che abbiamo definito con i sindacati di creare queste figure che sono l'operatore, lo specialista o il tecnico di grande evento che faranno veramente un mestiere ad hoc, e cioè quindi all'interno di un grande evento avranno una specializzazione propria. Deve immaginare l'area dell'Expo, quest'area da 1 milione di metri quadrati, come un insieme di più micro aree. Ecco, noi creeremo delle specie di responsabili di quartieri, per cui puoi immaginare anche lì la manutenzione, il pronto intervento, devono essere tutte codificate e devono funzionare con una logica che è quella del grande evento. Le faccio un esempio: noi stiamo aperto dalla mattina alle, diciamo, 9:30 fino a quasi mezzanotte, le 11:30 a mezzanotte. Poi, nelle poche ore notturne, dovremmo portare dentro 300 tonnellate di derrate alimentari ogni notte e portarne fuori 100 di rifiuti. Capisce qual è la complessità di un'operazione del genere? E quindi da lì anche una costruzione di un sistema operativo grande dettaglio. Ecco, insomma, di lavoro ce n'è tanto. Di lavoro ce n'è tanto e 800 giovani appunto avranno l'opportunità di prendere parte a questo grande evento lavorando naturalmente attraverso questi contratti che sono stati appunto individuati appositamente per Expo 2015. Avvocato Rotondi, intanto entreremo tra un po' nel merito di questa particolarità, di questo apprendistato appunto siglato per Expo, che non è lo stesso appunto che conosciamo, del quale abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, ma complessivamente qual è il suo giudizio su questa operazione? Si aprono davvero delle buone opportunità per 800 giovani, ma che potranno anche essere durature secondo lei? Ma il mio giudizio è positivo, perché credo che questo accordo dia il senso dell'attuazione di istituti che noi abbiamo nel nostro paese e che con grandi difficoltà cerchiamo di attualizzare durante il corso ordinario dell'attività imprenditoriale. Quindi il giudizio è assolutamente positivo. È un giudizio positivo anche perché per una volta abbiamo visto come è l'istituto che si adatta all'evento, cioè l'evento straordinario che abbiamo, del quale abbiamo sentito parlare, e quindi altra prova di maturità sia imprenditoriale e sindacale. Sulla possibilità che tutto questo poi realizzi un evento duraturo dal punto di vista occupazionale, i dubbi derivano dalla premessa, cioè l'obiettivo di questo accordo d'altronde non era neanche quello, però. Esatto, dico, perché è la premessa che stiamo parlando di un evento straordinario. Io ho sentito con molta attenzione le parole dell'amministratore Sala. Credo che continuare però a fare riferimento per ottenere accordi come questo a un evento macroscope, 13 milioni di tonnellate di derrate, ecco, sia un errore, perché la straordinarietà non è un concetto astratto. Straordinario potrebbe essere benissimo un qualcosa che ha a che fare con un evento molto più ridotto. Allora, intanto stavo controllando appunto se arrivassero delle domande già da parte dei nostri ascoltatori, poi gliene leggo qualcuno. Qualcuno sta già arrivando per la verità a proposito del bonus bebè del quale parleremo nella seconda parte del programma. Stavo pensando appunto proprio in riferimento alla questione che ha affrontato l'amministratore delegato di Expo Sala, che parlava appunto di un lavoro molto intenso per le giornate in cui questi 800 ragazzi saranno impegnati, 300 tonnellate di derrate alimentari da trasportare appunto nel corso della notte per fare in modo che chiaramente tutti gli stand che verranno attrezzati in quel periodo siano pronti e contestualmente rifiuti da portare fuori. Mi chiedo, avvocato Falasca, ma c'è bisogno di un tutor che è quella figura prevista dall'apprendistato appunto per fare un lavoro di questo genere? Ma sì, la domanda ha un senso, ma diciamo che l'apprendistato non è più quello che siamo abituati a pensare o che eravamo abituati a pensare in passato. In realtà il tutor non è una persona che accompagna passo passo l'apprendista in qualsiasi attività lavorativa lui compie, ma è una figura di riferimento che indirizza quel po' di formazione che va fatta durante il contratto. Quindi diciamo il tutor in sostanza controlla che il piano formativo sia coerente con quello che sta scritto nell'accordo e poi controlla che siano fatte le 120 ore di formazione annua che prevede qui l'accordo. Se posso dire una cosa qui proprio sull'apprendistato, io diciamo ho un approccio ambivalente su questo accordo. Da un lato mi stupisco dello stupore, no? Perché qui le parti sociali hanno semplicemente fatto il loro lavoro, quello che nella fisiologia di un sistema dovrebbe essere il lavoro ordinario. Presa la legge generale adattata all'evento, come giustamente diceva Francesco Rotondi. Dall'altro però non posso negare anche io che è un accordo molto positivo per quello che ci siamo detti. Non siamo abituati a vedere le parti sociali che fanno le cose per bene. Calando questo ragionamento sull'apprendistato, qui sono 2 anni che è stata approvata una riforma, il testo unico del 2011, e da 2 anni ci tocca sentire che è troppo complicato, è difficile da gestire e quant'altro. In realtà serve soltanto che le parti sociali si siedano intorno a un tavolo, scrivano delle regole semplici e magicamente si può usare questo contratto. Qui sull'Expo hanno fatto delle figure da 7 e 12 mesi. Quindi l'operatore ha un apprendistato di 7 mesi, lo specialista tecnico 12 mesi. Hanno una parte formativa molto snella da capire. Quando almeno e appunto nella versione normale, avvocato Falasca, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, un contratto di apprendistato non può durare meno di 2 anni, mi ricordo male? Diciamo che arriva fino ai 3 anni, però ad esempio c'è questo problema della durata, che i contratti collettivi non chiariscono mai se è una durata fissa o se è una durata massima. Ci sono proprio dei dubbi, a volte anche tecnici, che le parti sociali non risolvono. Qui la bravura di chi ha scritto l'accordo è stata proprio di andare a cogliere i nodi problematici e risolverli. Cioè, è un evento straordinario, dura un anno e il contratto dura un anno, cioè è inevitabile, poi è chiaro. Quindi il modello, perché ha visto subito Letta, ha detto a settembre lo useremo come modello. Qui il modello non è tanto nei contenuti, ma nel metodo. Cioè dovrebbero capire le parti sociali che bisogna adattare i contratti al mercato e non il. Avvocato Falasca, dove è finito? Brutalmente si è conclusa la telefonata, ma continuiamo appunto con l'avvocato Rotondi. Intanto stavo leggendo appunto gli ascoltatori. Impareranno a gestire eventi? O faranno i facchini, dice Marco da Ferrara. C'era bisogno di un nuovo contratto per fare il facchino sindacati, insomma commenta in maniera un po' pesante appunto il comportamento sindacale, un commento che noi non condividiamo. Avvocato Rotondi, lei sì, che dice? Assolutamente non è da condividere e bisogna fare una feroce battaglia a questo modo sempre di pensare del nostro paese, che appena succede qualcosa di positivo dobbiamo subito buttare addosso tutto quello che è successo 20 anni fa. È un accordo positivo, impareranno a fare quello che deve essere fatto, se non dovessero impararlo saranno sanzionati chi non ha consentito tutto questo. Guardiamolo in maniera positiva. Torno sul concetto del modello, come diceva Giampiero Falasca prima, attenzione, non ci sarebbe stato bisogno neanche di questo accordo sulla straordinarietà, perché le nostre norme ce l'hanno già questi concetti. Io credo che sia importante invece il modello, non tanto contrattuale quanto organizzativo gestionale. All'interno di questo accordo ci siamo focalizzati unicamente a verificare le tipologie contrattuali, mentre all'interno di questo accordo ci sono tanti elementi interessanti. La famosa flessibilità, la flessibilità che deve avere da una parte la disponibilità del lavoratore a fare determinati sacrifici, ma la disponibilità di chi li utilizza a dare un qualcosa in più di diverso di quello che è la retribuzione ordinaria. Io credo che sia questo il tema fondamentale, come il modello di relazioni sindacali. Ecco, il sindacato, l'impresa, questo ce lo siamo detti in qualche altra Trasmissione, probabilmente, sì. trasmissione, deve essere un modello propositivo, non ci deve essere Chiusura. contrapposizione, non ci deve essere chiusura. Nella proposizione di attività serie, corrette e che hanno uno sfondo solidaristico, non ci può essere contraposizione, non ci deve essere Certo. contrapposizione. Allora, a proposito di questo, tra l'altro stamattina al Ministero del Lavoro c'è proprio il tavolo sull'Expo 2015, un incontro a cui partecipano le parti sociali insieme al Ministro del Welfare Enrico Giovannini, e sul tavolo ci sono le nuove regole da applicare in materia di lavoro in occasione dell'esposizione universale. Avvocato Falasca, visto che l'abbiamo ripristinata la telefonata, quali sono ancora gli aspetti appunto da chiarire e sui quali in queste ore si stanno confrontando sindacati e ministro? Ma in generale dice o sui contratti per l'Expo? Perché Sì, no, sui contratti per l'Expo, stamattina il tavolo è su questo. sì, no, perché io credo che qui ci sia un equivoco di fondo spaventoso ingenerato dalle prime bozze del decreto Letta, no? In cui c'era tutta una normativa sulla flessibilità che aveva una giustificazione dell'Expo, cioè diceva siccome ci sarà l'Expo vogliamo cambiare le norme, che era un collegamento fragilissimo perché diciamo l'Expo per Più che quanto cambiare e importante. derogare alle norme esistenti, no? Esatto, Temporaneamente. esatto, esatto. Diciamo che questo aggancio concettuale penso che via via dovrà venire meno, e il tema vero su cui dovranno confrontarsi le parti sociali è a settembre se fare o meno il famoso accordo interconfederale sulla causale dei contratti a termine. Perché qui, se posso, cerco di non essere troppo tecnico, ma qui Esatto, neanche per chi magari ha già pronto il l'accordo. curriculum da poter inviare, appunto da inserire sul sito dell'Expo, Esatto, non perché gli noi questo interessa oggi è il nulla. punto a cui vogliamo arrivare Ok, poi, avvocati. ok. Sì, diciamo che sì, così, per far usare con minori rischi i contratti a termine, quindi creare più occasioni di lavoro, serve mettere un pochino all'angolo alcune complessità che piacciono tanto a noi avvocati. Questo dovrebbe fare l'accordo interconfederale di settembre, ma non per l'Expo, per tutti i contratti a termine che si usano in Italia, perché oggi le aziende scappano a volte dal lavoro subordinato anche perché alcune forme di lavoro si accompagnano a troppo contenzioso. Quindi noi dobbiamo creare un clima invece che avvicini le aziende che hanno lavoro da offrire a regole più semplici e più, diciamo, rispettose dell'attività reale che svolgono le persone. Allora, adesso direi che tra un po' sentiremo anche Sala sul tema dei contratti a tempo determinato, citati poco fa dall'avvocato Falasca, e poi vi anticipo già che vi chiederò quello che mi sta sollecitando un ascoltatore che lamenta del fatto che Barisoni, quando fece l'intervista a Sala, non è riuscito a farsi specificare quanto pagheranno questi ragazzi, queste ragazze, per chi farà per esempio il part-time, quanta contribuzione verrà versata ogni mese. Questa domanda ce la fa Roberto, ma è una domanda appunto che ci interessa. Per la verità ci sono chiaramente dei termini di riferimento e vedremo appunto in che maniera verranno tenuti in considerazione. Sentiamo intanto Sala proprio sul tema dei contratti a tempo determinato, quanti lavoratori appunto riguarderanno questi contratti. Roberto, Noi che era. avremo un team molto giovane, tra l'altro oggi anche l'età media della società Expo è veramente molto bassa, e quindi siamo alla ricerca di giovani che abbiano voglia anche di adattarsi, ma di imparare. Ecco, quindi anche questo secondo passaggio indubbiamente è estremamente importante. E questo riguarda contratti a tempo determinato, sono altre 300 persone. Come le individuerete? Chiaro che non voglio entrare nei vostri criteri di selezione, ma per esempio utilizzerete le liste di mobilità, la disoccupazione? Cioè andrete. Sì, in parte useremo, in parte abbiamo questo obbligo che discende Beh, certo. dall'accordo con i sindacati di attingere alle liste di mobilità e di disoccupazione, in parte andremo con sistemi classici di ricerca. Devo dire che stanno funzionando molto bene in sostanza gli avvisi in rete, ma noi già Ah, oggi, beh, in i miei rete. collaboratori, se togliamo ovviamente i dirigenti che rispondono direttamente a me, ma i nostri collaboratori in realtà li assumiamo quasi tutto attraverso avvisi in rete. Puoi immaginare quanti curriculum arrivano, dopodiché magari la procedura di verifica è un po' laboriosa, però insomma alla fine otteniamo gente di grande qualità. Avvisi in rete, avvocato Rotondi, secondo lei che cosa significa? Che i possibili candidati devono andare sul sito di Expo appunto ed eventualmente inoltrare il proprio curriculum attraverso questa modalità? Sì, credo che ci sia la possibilità di inviare il curriculum con tante modalità. La cosa che io consiglio in assoluto è costantemente monitorare il sito e verificare quali sono le indicazioni. Consiglio altresì di non avere solamente l'approccio tecnologico, ma anche il buon vecchio invio, secondo me, può avere la sua... Cartaceo, dice lei, per non saperne leggere né scrivere doppiamo l'inoltre. A meno che uno non ha una PEC, allora è un discorso diverso. Ah, perché? Qual è no, voglio dire, per la certezza, per la certezza dell'arrivo, no? Certo. E quindi della presa. A meno che non ci sia un sistema di certificazione. Certo. Questo non è una domanda per un giurista, però in realtà, siccome ne abbiamo parlato prima di iniziare la trasmissione, secondo lei, a fronte di 800 posti disponibili, quanti curriculum potranno arrivare per questa operazione? Ma io auspico tantissimi. Visto l'approccio invece culturale, io non credo che ci sarà poi questa grandissima esplosione. E poi soprattutto sarebbe importante vedere la tipologia dei curricula che arriveranno, se risponde a quello che in realtà questo accordo col sindacato, con gli imprenditori e con gli istituti volevano effettivamente realizzare. Allora, tra l'altro, ecco qua, Dino ci scrive: come fare a candidarmi ad Expo, al diploma di maturità e l'attestato di tecnico del suono? Cosa devo fare per candidarmi per una occupazione ad Expo 2015? Scriva un buon curriculum, chiaro, Riccardo, e poi lo inoltri a www.expo2015.org/lavoraconnoi. Se l'indirizzo è lunghissimo, però sicuramente se va sul sito di Expo troverà appunto il punto da cliccare e da aprire appunto nella sezione elenco ricerca in corso, peraltro vedo che c'è. Tra l'altro fatelo anche avete anche del tempo per farlo, perché probabilmente le assunzioni non prenderanno il via prima di autunno dell'anno prossimo, per cui avete tutto il tempo appunto per quantomeno completare il curriculum e scriverlo bene. Poi lo sentiremo anche in un altro stralcio appunto dell'intervista a Sala, chiaramente la conoscenza delle lingue per quell'appuntamento là è, come dire, un tema che sarà preferibile, che verrà utilizzato chiaramente anche per discriminare, poi per scegliere chiaramente le persone da contrattualizzare in quel momento. E comunque, insomma, di questi temi parliamo tra poco, perché vedo che sono già andata fuori tempo massimo. Abbiamo il nostro primo blocco pubblicitario, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, oggi martedì del lavoro, Salva Danaio, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, oppure 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi per parlare dei contratti per Expo 2015. 340 giovani di età inferiore ai 29 anni potranno stipulare per la manifestazione appunto internazionale contratti di apprendistato, 300 persone con contratti a tempo determinato, 195 nuovi stagisti appunto per un anno, per essere impegnati appunto in questo grande evento che è sicuramente concentrato nel milanese, ma che probabilmente speriamo attiverà anche come dire nuove opportunità per tutto l'indotto che graviterà intorno alla manifestazione. Allora, stiamo parlando di come inoltrare le candidature. Le informazioni per partecipare alla selezione per le posizioni per cui è previsto un contratto di apprendistato tempo determinato stage saranno disponibili a partire da ottobre 2013. Ecco perché l'ascoltatore che ci ha scritto prima lamenta vado a dare un'occhiata al sito, mi ha detto. Io prima l'avevo così avevo caldeggiato di andare a dare un'occhiata. Effettivamente ancora non c'è grande chiarezza, ma ribadiamo, avvocato Rotondi, le assunzioni non cominceranno prima dell'anno prossimo. Corretto. Per cui c'è tutto il tempo per, ribadisco, scrivere correttamente il curriculum e appunto monitorare chiaramente il movimento sul sito. Sì. Non appena il link è pronto, inoltrare appunto le proprie candidature. Prima di continuare a parlare di Expo 2015, però, vi avevo detto prima in apertura che dobbiamo anche aprire una parentesi per la serie Come è andata a finire, su una questione a cui abbiamo dedicato tante puntate di Salva Danaio, tra cui una anche ad inizio luglio, quando era proprio pienamente operativa l'operazione bonus bebè, cioè in quel periodo le mamme interessate potevano inoltrare all'INPS la propria domanda per ottenere per 6 mesi questi 300 euro mensili o per pagare la babysitter o per pagare la rata del nido, naturalmente nel momento in cui fossero ritornate al lavoro. Allora, un importo tale da poter soddisfare 11.000 mamme, quante domande sono arrivate all'INPS? Neanche 4.000, 3.783. Paola Francin, esperta in tutela della maternità e della paternità presso il patronato INAS CISL nazionale, buongiorno e grazie di essere con noi stamattina. Come mai questo flop? Ma il flop ha motivi diversi, sicuramente si tratta di una procedura sperimentale, quindi con regole nuove, condizioni nuove. Il problema maggiore si è rivelato quello di accedere individuare la struttura per quanto riguarda l'asilo nido. Molte lavoratrici avevano già il bimbo al nido oppure cercavano un nido vicino e non trovavano il nido all'interno degli enti accreditati, quindi un problema grandissimo è stato questo. In alcune province non esisteva nell'elenco pubblicato sul sito dell'INPS nessun nido presente, quindi per queste lavoratrici è stato impossibile presentare la domanda. E quindi siccome non era detto appunto che in alternativa potessero prendersi la babysitter, per cui chiaramente molte volte non è possibile l'alternativa, certo, nel senso che il bambino magari è al nido, la mamma ha impostato la sua vita familiare in quel senso e insomma non si può, credo, decidere sulla base di 300 euro per qualche mese, insomma un bambino resta sempre un bambino, ossia ha delle abitudini e i genitori sono liberi di impostare la crescita secondo delle indicazioni che non credo possano essere influenzate in modo assoluto da 300 euro di bonus, questo credo che sia chiaro per tutti. Quindi primo problema questo appunto. In effetti abbiamo chiesto poi all'INPS se fosse possibile cambiare la struttura nel caso di problemi di inserimento e ovviamente la risposta è stata quella presente nel bando, e cioè che sarebbe stato possibile cambiare il nido soltanto nel caso di trasferimento della mamma del luogo di lavoro, quindi voglio dire anche abbastanza rigida come gestione. Quindi problema quello del nido, problema innanzitutto riguarda i pubblici dipendenti che come è noto non sono stati ricompresi in questa tornata, in quanto nel pubblico impiego è necessaria una disciplina apposita appunto per consentire l'esercizio di questa facoltà. L'inoltro della domanda invece appunto telematicamente parlando sul sito dell'INPS era un'operazione semplice, avete avuto modo di aiutare? È stata molto complicata devo dire, per vari motivi. Innanzitutto le prime istanze come patronato non avevamo a disposizione la procedura, quindi abbiamo accolto le lavoratrici, abbiamo fornito informazioni e abbiamo cercato di dare dei consigli affinché loro potessero, ma devo dire che il sistema anche con l'accesso, con il team personale della lavoratrice, la lavoratrice non riusciva in alcuni casi a sbloccare la situazione. Problemi ne abbiamo avuti anche noi in quanto anche a fronte di un mandato di patrocinio all'invio della domanda spesso seguiva un SMS alla signora molto vago, la domanda deve essere complicata e nessuna sede regionale LINPS riusciva a fornirci indicazioni su quale fosse il tipo di mancanza che impediva il completamento dell'istanza. Allora, tra l'altro, sì, quindi questa è un'altra problematica. Un altro ascoltatore ci segnala che questo bonus non è stato pubblicizzato a dovere perché neanche le scuole lo sapevano. Effettivamente, appunto, le scuole, dottoressa Franzin, che si sono accreditate appunto per poter soddisfare la mamma che scegliesse effettivamente la struttura al posto della babysitter, come si sono accreditate in via non so, autonoma, individuale? Per l'accreditamento sono previsti dei requisiti abbastanza stringenti, molto stringenti, e tra l'altro siamo in attesa di chiarimenti anche in ordine alla sospensione del pagamento del voucher quando i requisiti previsti per l'accreditamento non sono poi effettivi. Quindi ci sono stati problemi numerosi che hanno fatto sì che neanche 4.000 mamme appunto avessero voglia di fare appunto questa domanda. Parliamo di bambini molto piccoli perché l'undicesimo mese dopo il congedo di maternità era il termine ultimo per accedere alla prestazione, quindi sono bambini piccoli. E oggi in Italia il congedo parentale, stante la nota purtroppo mancanza di flessibilità, la legge non lo prevede, quindi deve essere concordato con l'azienda, di orario per far fronte alle esigenze dei bimbi piccoli, resta il congedo parentale. Significava per una mamma con un bimbo piccolo riuscire a preventivare il bisogno di tempo per il bambino da qua a 8 anni, perché operazione, 8 anni certo, è l'ultimo giorno utile per la fruizione del congedo parentale. Come è noto oggi la legge prevede anche che i contratti possano introdurre un frazionamento orario, questo è proprio il segnale dell'importanza di questo istituto. Allora, guardi, c'è un ascoltatore che è d'accordo con lei, Marco da Bologna, ci scrive: per 300 euro al mese bisogna rinunciare alla parentale, appunto in realtà il gioco non vale la candela. Dottoressa Franzin, le faccio sentire anche Vittorio da Milano, che è un papà che ci chiama oggi, che credo abbia tentato di fare la domanda. Vittorio, non c'è riuscito, che è successo? Buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ospiti. Allora, io come papà, col mio PIN, non sono riuscito perché non è possibile farlo come papà, ok? Mm. Però avevo anche il PIN della mamma e ho cercato di farlo col PIN della mamma. I problemi quali sono? Praticamente il mio asilo, che avevo già l'asilo per la mia bimba, non è incluso. Certo, esatto. E allora non è stato rinunciato. Ha rinunciato praticamente subito. Per cui non trovo giusto che ci siano solo alcuni asili che erano... Certo, che erano... dovevano appunto dare la loro disponibilità anche le strutture. Vittorio, grazie per la sua segnalazione. Dottoressa Franzin, sono le cose appunto che dicevamo all'inizio. Vittorio le ha sperimentate sul campo, sulla propria pelle, e appunto abbiamo scoperto quali sono stati i nodi problematici di questa operazione. Ma siccome questo contributo è un contributo pubblico che appunto in via sperimentale durerà, se non sbaglio, 3 anni, ci sarà un'altra operazione, dottoressa Franzin? Certamente sì, io mi auguro che nelle prossime occasioni alcuni problemi insomma si rivelino superati. Certo. E quindi consentano, ma il problema di fondo è giustamente quello che evidenziava il lavoratore, uno di quelli importantissimi, rimangono, cioè non è pensabile oggi nel 2013 che una prestazione, che il compito di conciliazione sia esclusivamente previsto dalla legge in carico alla mamma. Il bimbo nasce con due genitori, la Corte Costituzionale più volte ha ribadito che i genitori sono liberi di scegliere quali dei due risponde in modo migliore per le esigenze del bambino. Questa libertà ai genitori, che ha previsto la Corte Costituzionale, deve essere riconosciuta dalla legge. Messaggio chiaro, dottoressa Franzin, la ringrazio, torneremo sicuramente a ricontattarla appunto più avanti, se dovesse esserci più avanti appunto un'altra operazione, come credo sia previsto appunto dalla norma. Cercheremo di tornare a sollevare le questioni problematiche che adesso non l'hanno resa appunto un grande successo. Avvocato Rotondi, ritorniamo all'Expo 2015, perché abbiamo lasciato in sospeso il tema delle remunerazioni. Per quello che riguarda gli stagisti che verranno assunti appunto per questo periodo, la remunerazione è chiara e già definita. Per chi invece stipulerà un contratto di apprendistato o un contratto a tempo determinato, che tipo di parametri verranno presi a riferimento? Ma il riferimento sarà il contratto collettivo del terziario, che è il contratto che è stato ritenuto quello più vicino alle esigenze di Expo. Per cui i contratti collettivi nazionali, come tutti sanno, hanno all'interno le cosiddette retribuzioni minime, che non possono essere disattese, e quelli saranno i punti di riferimento. È chiaro che nella struttura dell'apprendistato ci sta la possibilità di andare, diciamo così, al di sotto di quella che è la normale assunzione. Quindi se io dovessi essere assunto normalmente per l'attività che faccio, faccio degli esempi così a caso, certo, secondo livello, il contratto di apprendistato mi consente di assumere con un livello inferiore, perché c'è lo scambio famoso fra istruzione, formazione e lavoro. Quindi in riferimento al contratto collettivo nazionale non ci può essere nessun tipo di abuso o di utilizzo strumentale surrettizio. Quindi non è vera la contestazione comunque che muovono molti ascoltatori, no, che dicono di termini, diciamo di soldi non si parla in questo contratto, in realtà assolutamente ci no. Sono dei termini appunto molto precisi stabiliti per legge. Allora ci fermiamo, ci sono i suggerimenti per chi è in viaggio, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, oppure scriveteci al 349 238 6666. Visto il tema dell'Expo, ci scrive un ascoltatore, vorrei sapere se sono previste anche figure nel campo della ristorazione. Non ne abbiamo ancora contezza appunto, ma probabilmente, io ritengo forse anche di sì, perché in quel periodo ci sarà da sfamare ondate di non turisti, orde appunto di persone che arriveranno da ogni parte del mondo per questa manifestazione. E poi appunto sto cercando di vedere anche altri messaggi, ma ve li leggo chi vi ascolta ha capito che è un lavoro di facchinaggio e basta, è inutile che ci giriate intorno. Gianni da Venezia, le posso assicurare che tanta gente che sta a spasso in questo momento, suo malgrado, non vede l'ora appunto di fare anche un lavoro così appunto basico, lo giudichi come vuole, ma di ritornare appunto sul mercato del lavoro anche a costo di fare il facchino. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi parliamo appunto dei giovani, soprattutto, che potranno candidarsi appunto per partecipare ad Expo 2015, chiaramente attraverso un contratto di lavoro. E stiamo parlando appunto delle tipologie di contratto che sarà possibile sottoscrivere per questi 800 giovani lavoratori che saranno impegnati nella manifestazione appunto lombarda del 2015. Avvocato Falasca, non mi sono dimenticata di lei, con il suo telefono abbiamo avuto qualche problema. Questa mattina le faccio sentire quello che ha detto l'amministratore delegato di Expo, Giuseppe Sala, sul tema invece degli stagisti, perché per queste figure appunto è stato già fissato l'importo preciso con cui verranno remunerati, o anzi rimborsati mensilmente. Sentiamo cosa ha detto. La società Expo è una società leggera, saremo in 325, quindi se avessimo potuto assumere solamente 10% stagisti, avremmo potuto assumere 32 stagisti. Ne abbiamo bisogno di 200. Che mestiere faranno? Lavoreranno al centro operativo, si occuperanno di manutenzione, si occuperanno ad esempio di traduzione, di lingue. Li pagheremo 516 euro al mese, poco chissà, però in realtà parteciperanno, e poi quello che si paga in maniera normale, parteciperanno per 7 mesi a un evento straordinario, internazionale, esposti all'incontro col mondo. Ecco, crediamo che sia un'ottima opportunità per i ragazzi. E tra l'altro non abbiamo ricordato che a tutti questi che verranno assunti con queste tre tipologie contrattuali si aggiungeranno anche 18.500 volontari, un altro esercito appunto, saranno circa 500 al giorno e si renderanno disponibili per turni di 5 ore, quindi 18.500 volontari totali di Expo Milano 2015. Avvocato Falasca, sul tema della retribuzione appunto degli assunti per Expo, voleva aggiungere qualcos'altro su quello che abbiamo detto prima? Sì. Sì, due cose al volo. La prima è che, come ha detto giustamente Francesco, bisogna andare a vedere nel contratto collettivo del turismo quanto è previsto per il quarto, per il terzo e per il secondo livello. Quindi è normale che l'accordo non ne parli, perché rinvia quello. Sugli stagisti volevo dire una battuta, che sono un po' saltato dalla sedia quando ho sentito il dottor Sala che diceva che gli stagisti lavoreranno. Ora bisogna fare attenzione, perché lo stage non dovrebbe essere gli è scappata evidentemente. È chiaro che ha un'ambiguità di fondo che non ci possiamo nascondere, lo stage, quindi non è che la Expo lo può risolvere, però bisogna fare attenzione, perché se le modalità sono troppo spinte verso il lavoro subordinato, qualche problema ci può essere, e non esiste accordo sindacale che ci salvi. Io, se vedo una criticità dell'intesa, è proprio questa, che il numero di stagisti è molto alto, e insomma dovranno stare attenti la società, ma non tutti che lo faranno, a come li utilizzano, a quali attività fanno fare loro. Non li possono mettere in cucina, non li possono mettere a portare l'acqua, perché lo stage è un'esperienza fatta, come giustamente questo sì veniva detto, per conoscere un contesto organizzato, in questo caso conoscere un grande evento. Però, ci saranno anche tante occasioni nel ricevimento, chiaramente, di tutti i punti che saranno allestiti in tutta la città e provincia, probabilmente sarà stato fatto un calcolo di convenienza, appunto, anche penso che 200 persone, secondo questa tipologia contrattuale, evidentemente sono già stati individuati anche i punti dove potranno essere collocati secondo modalità corrette. Avvocato, non lo so, parlo da Alice nel Paese delle Meraviglie, Lo spero, perché diciamo che dobbiamo fare, abbiamo fatto tanti complimenti all'accordo, no? Allora dobbiamo anche stare attenti, l'attuazione sarà importante, così come sarà importante la parte sui contratti a termine, sulla somministrazione, perché poi non ci vuole nulla purtroppo in Italia per finire sul banco degli imputati per la gestione del lavoro. Siamo in un ordinamento formalistico, pieno di contenzioso e pieno di problematiche, quindi una bella esperienza con l'Expo non dovrà essere rovinata da errori o imprecisioni da parte di tutti. Gli stagisti devono fare gli stagisti, la banalità. Certo, detta in termini molto chiari. Allora, io vi leggo invece dei messaggi degli ascoltatori, perché ce ne sono molti e sono molto interessanti. Allora, che vedono tra l'altro in maniera veramente contrapposta anche questa opportunità di Expo 2015. Mariella dice: sono i soliti lavori sottopagati, dove, visto che non c'è lavoro, si sfruttano sempre i giovani. Tina, sentite che cosa scrive: chi pensa che in un Expo il facchino sia la figura predominante, non ne ha mai vista una, il mondo intero in poche migliaia di metri quadri. Avvocato Rotondi, forse effettivamente Tina ci ha scattato una fotografia molto realista su questo evento incredibile che speriamo appunto possano vedere molti, non solo i milanesi, nel 2015. No, è straordinaria la sintesi fatta dall'ascoltatrice, perché prima Sala si è soffermato su un concetto che è sfuggito, cioè al di là dell'evento, al di là di quello che si realizzerà in questi mesi, eccetera, ma sarà una straordinaria opportunità di conoscenza, di crescita e magari di opportunità di lavoro diverse da quello. Esatto, secondo lei perché non è stata aperta anche l'opzione, per esempio, come ci chiede un ascoltatore, per cinquantenni che sono a spasso in questo momento, visto che comunque è un contratto che viaggia sulla tipologia della deroga? Ma non riesco a darmi una spiegazione. L'unica spiegazione che mi viene in mente in questo momento è la estrema deroga alla deroga che sarebbe stata necessaria per aprire agli ultra cinquantenni, e l'altra è una risposta che è più politico e sociale a quella che era la disoccupazione giovanile. Quindi la concentrarsi è la concentrazione più sui giovani che su altri cinquantenni. In realtà, voglio dire, il recupero parziale c'è quando si parla di risorse che andranno pescate dalle liste di mobilità piuttosto che la cassa integrazione. Può darsi che questo sia stato il colpo al cerchio. Ecco, certo. Allora, terminerei, stiamo andando verso la chiusura della nostra trasmissione, ancora sull'invio della candidatura, perché c'è un ascoltatore, Dino, che ci sta scrivendo con insistenza. Giustamente, allora, attraverso le vostre esperienze concrete solleviamo anche i problemi. Ho inviato la mia candidatura mesi fa, visto che l'abbiamo invitato a tenere sotto controllo il sito, non ho avuto la minima risposta, non erano pronti per accogliere le candidature. Dino, ho chiesto anche l'elenco delle imprese che forniscono o forniranno prodotti e servizi per questo evento. Mi è stato risposto che non sono tenuti a comunicarlo a terzi. Si figuri adesso che movimento c'è su tutti gli appalti anche per i lavori di quel periodo, Riccardo, si figuri se potevano darle un'informazione di questo tema. Lui chiede come si spiega questa cappa di silenzio. Avvocato Falasca, vogliamo rispondere a Riccardo? Do a lei questa responsabilità. Sì, sì, giustamente l'ha detto lei, è un po' presto e mi sembra una risposta eccessiva, però visto che ci dà gli appalti, volevo citare un'altra qualità dell'accordo. Ci si crea una filiera di legalità e di, diciamo, di controlli incrociati sulla sicurezza sul lavoro, che è molto importante. Quindi su questo bravo, perché la sicurezza del lavoro purtroppo l'abbiamo tirato sul problema solo all'ultimo, ma in realtà lo stanno sollevando molti ascoltatori. Esatto. E allora l'accordo ha questa grande qualità, per cui si prevede, diciamo, uno standard minimo che deve essere garantito da tutti, non solo da Società Expo, ma tutta la filiera degli appaltatori e dei subappaltatori. Poi ovviamente, insomma, pretendere l'elenco non vedo neanche quale utilità. Io penso che l'ascoltatore debba seguire il consiglio. Ma secondo me, leggendo i giornali nelle prossime settimane, anche il Sole 24 Ore si occuperà molto dettagliatamente di questo evento. Hai voglia se i nomi delle aziende appunto verranno fuori indirettamente, anche se non saranno pubblicate dal sito di Expo. Avvocato Rotondi, voglio concludere con lei. Dopo questo protocollo d'intesa fra l'organizzazione di Expo, le organizzazioni sindacali, il Ministero dell'Economia, per quale altro momento sarà possibile stipulare un contratto di questo tipo con tutte queste deroghe, insomma, anche per movimentare il mercato del lavoro italiano? Ogni qualvolta le parti sociali si metteranno al tavolo avendo a mente il bene di tutti. Senza aspettare un'Olimpiade, che un altro evento. La straordinarietà, ripeto, è un concetto che può essere trasferito all'interno di un accordo laddove necessario. Io credo che invece all'interno di accordi come questo, che banalmente potremmo definire quasi accordi di secondo livello, non necessariamente devono avere il concetto della straordinarietà, ma è sufficiente che esista l'accordo tra le parti per giungere a un utilizzo degli strumenti che oggi abbiamo. Allora, intanto concludo con Alba, che dice: ma non si vergognano, 506 euro al mese. Allora, è un contratto questo per gli stagisti, Alba, forse non ci siamo capiti, che lavoreranno 5 ore al giorno, per cui magari contestualmente studiano, fanno l'università, per cui cara grazie appunto che hanno anche questa opportunità, e sono netti, dice l'avvocato Rotondi. Grazie per essere stato con noi, buone vacanze. Grazie a voi. Avvocato Falasca, buone vacanze anche a lei, ci sentiamo da settembre in avanti, credo, a questo punto. Grazie a Valentina Magri per la collaborazione in redazione, Gianmarco Ferronato in assistenza, Roby Scaltritti, Gianmarco stava di là, Roberto Scaltritti, grazie ad entrambi. A stasera Focus Economia, buona giornata a tutti.